Vabbè, allora magari aspettiamo fino alla settimana prossima, ma farai sempre tu. No, mandami tutto, vabbè, allora okay, mandami grande. Tutto comunque. Bravo, bravo. E pensa un pochino di cosa possono parlare le donne in trasmissione per la Befana. Cavoli, sai che mi sono ricordato adesso che c'era una menzione da fare, posso farla al volo così? Ti richiamo dopo. Ma no. Mi sei fuori contesto, sto lanciando il tema della puntata. Ma lancia il tema della puntata. Parleremo di shopping. Ah, grande. Siete andate a fare shopping potete oggi? Commentare ragazze, potete commentare. Non possiamo commentare. Aspetta, è incommentabile. No vabbè, mi hanno fatto delle facce che hanno preso la porta, cioè... La Befana dona, non acquista. Ecco. No, ma infatti è spaventoso. Questa era Sabina, quella prima invece era Natalia. Poi abbiamo uno splendido ospite silente che ci farà tante foto e sta ballando in questo momento. Quello non si vedrà domani sul blog. Ma no, okay. No noi parleremo di tutto ciò che verrà dopo lo shopping. No, perché shopping oggi cominciano. Oggi film, sai che io adesso faccio questo lavoro in ufficio. E quindi oggi c'erano le mie colleghe di rimpettaie che erano lì tutte quelle che cinguettavano su dove andiamo a fare a comprare acquisti, dicendo addirittura c'è in pausa pranzo sono andate al Centro Nova a lottarsi queste cose. No, c'è uscito un film che parla di sta cosa qua. Si chiama Shopping, Office Working and Fist Fucking. Ah però, un bel film sereno. Sì. Quelli lì lo danno all'ambasciatore. Bollino verde. Esatto. Da trovare nella calza. Senti, ma vuoi che ti presenti le mie super mega galattiche ospitesse della 102esima puntata del Cox, nonché la prima del 2018 in cui tu sei assente? Se proprio insisti. Certo. Ah, come non si reagisce così? Non si reagisce così? Che ti chiamo. No, hai ragione, certo, dai, presentamela subito. Allora, ti presento la super mega galattica e meravigliosa Natalia Mazer. Guarda, io devo sbagliare un nome, una citazione, l'ho fatta subito, ce la siamo togliata via, la mia gaffa l'ho già fatta, ok. Natalia Mazer, te la presento. Ciao. Ciao. Hai sentito che bella voce? Molto bella. Tra l'altro è anche latinoamericana, eh? Attenzione. Wow. Fa tango argentino. E non solo. Hoy es la noche que hablamos español. Ho fatto bene a non venire. Ascolta. Hoy es la noche que hablamos español. Ah, ho fatto bene a non venire allora. No, hai fatto malissimo. Ma no, è un padre di famiglia, povera creatura, lasciamolo tranquillo. Allora deve resistere. Poi abbiamo un graditissimo ritorno che già fu co-conduttrice coxica. Wow. Sabina, ciao. Che il cognome non lo diciamo neanche stavolta. Io sono Sabina da Barletta, la Befana in bicicletta. Però, qua ci sta lo stacchetto, aspetta che forse se... Ah, ma lo sai che qua sul computer della diretta comunque è questo? Ci stava. Comunque c'era un ritardo cosmico e coxico. No, sai che adesso sul display della diretta ci sono delle chiazze nere coi pixel che... Però noi si fa lo stesso. Va bene. Va bene. E poi abbiamo l'ospite silente di cui non possiamo neanche fare il nome. Facciamo il nome? Solo è Sabrina, cognome, Sabrina C. Che alza i pollici silenziosamente e ci scatta tante belle fotine. Oh. E quindi di cosa parleremo? Parleremo di... Farnesi. Anche? Quello però al posto delle pubblicità. Brava. Grazie. Allora, parleremo di shopping? No. Ah. No. No, allora Sabina sta andando via. No, parleremo di... com'è che dice? Cosmonaute. Sì, la Befana sì. Cosmonauta. Parleremo di swap party. Bello. Invece che lo shopping. E avremo il collegamento della Befana da Padova con Laura V, che l'abbiamo avuto l'anno scorso, lo facciamo anche quest'anno perché mi sembra giusto. E ci potrebbe ristare di nuovo questo. Così, perché abbiamo fatto una... Aspetta, vediamo se c'è lo jingle della vaga scaletta. No, non l'ho preso. Va bene. Allora, tu che menzione volevi fare, Stefano, e poi ti lasciamo in family? Ah, cavoli, mi hai preso mi ero già dimenticato naturalmente. No, che giovedì prossimo inaugura Locale 2 con una mostra con, non mi ricordo più, aspetta. Ottimo, bellissimo. Barbara J. Matera e Gelder Ramlov, curata da Katia Baraldi. Però tu, a parte... 11 gennaio alle 18:30. Cioè, però tu, giovedì, che sì. Lavori nell'arte, che cioè, insomma hai fatto sì. dell'arte il tuo percorso di vita e via dicendo, un po' alla Gilbert sì. Engelhorn, ma neanche troppo, insomma, alla tua moda, alla Pasquini. E perché ogni sì. volta che fai le menzioni di arte contemporanea fai tutta sta sfilza di nomi, dici dov'è, chi la cura e poi non dici un coxo? D'altro. Ah, sai perché? Perché non c'è scritto nient'altro. C'è scritto solo Boundless, solo il titolo. Com'è? Fra l'altro l'hanno scritto sbagliato, Boundless. Ma è fatto apposta perché è concettuale, no? È concettualissimo. Quindi cosa vuol dire con questo errore? Boundless vuol dire, non lo so, è a metà tra Bondi e Bondi Motta senza confini. Ma Boundless? Boundless. Ah, sì. Quindi non... Boundless. Vabbè. Insomma, con questo grande dubbio. Comunque sarà una grande mostra, perché Ghese è bravissima come artista. Bene, e Katia è un'ottima poi sappiamo curatrice, per cui Barbara J. Matera non la conosco, ma presumo che sia bravissima anche lei. Anche perché ormai il Coxo conosce e stima la qualità di Locale 2 da tempo immemore. Certo. E quindi noi ci lasciamo così e io metto su un branino per riprendere con le vocali di un paese del nord. Molto bene. Ciao. Buon anno. No, vabbè. Anche a te. Ciao. Qualcos'altro vuoi dire? No, che ci vediamo in diretta venerdì prossimo. Se vieni anche tu, mi fa piacere. No, io sarò a lavorare. Ciao, ma Stefano. Che disastro, io e te insieme mai più. Forse a febbraio, se non mi riassumono. Ciao. For every actor that we got, you got a cast and a crew and a million size other spiders. I complain about my belly fat, you die from it, I can't compete with that. Size spiders, it feels so small, but we must not forget the size matters. And we got the biggest alphabet. We got 14 letters, you only got 26. Let's see how big you are when you suck a fucking vowel. Size. Bigger, better, stronger, faster. With I-O, I am the master. What makes you think you're qualified for this job? Well, I-O, I got I-O. Champagne for everyone, not me. How will you pay for that? Ha, funny. I-O, I got I-O. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, U, V, W, X, Y, Z. Mr. President, the Norwegians, they have a bigger alphabet than us. What? Bigger? My fellow Americans, we have reason to believe Norway is weapons of mass destruction. Carini, Collectivet, voi non ci avete visto, ma noi abbiamo slegato un sacco e se la nostra ospite silente Sabri C ha fatto il video, lo pubblicheremo domani. Sabina scappa un'altra volta. Ormai è tardi. Comunque, eccoci ragazze, siamo carichissime. Sappiamo anche qual è il numero di questo Cox, ed è il 202. Voi siete le super mega galattiche ospitesse di questa puntata delle Befane. 202. Mi piace il 202. Sì, sì. A me piace anche 206, però questa è una cosa che... La macchina. No, è un'altra cosa, ma di cui non dobbiamo parlare. Infatti Natalia non fa parte della nostra chat, quindi lei... Non so niente. Ma ti diremo dopo. Va bene. Ok, allora, abbiamo dei temi forti, dei temi veramente tosti, che sono all'ordine del giorno, lo shopping. Ah no. No. Allora abbiamo Sabina che propone Ti racconto una storia. Dai. Oggi il coxo rischiava di saltare da parte mia perché ho perso la voce. Ma in realtà questa è la storia della Befana raccontata da Rodari, che ci narrava la storia di questa vecchina che si era influenzata e in quell'anno non riusciva a comprare i doni per i bambini. Allora quell'anno, in questo libro chiamato Freccia Azzurra, spero che di non sbagliare citazioni, perché ormai la vecchiaia avanza, sono una vecchia befana anch'io. Sì, certo. In questo libro Freccia Azzurra, i bimbi, solo i bimbi ricchi, a seconda della scelta del giocattolaio, riuscivano ad avere i doni, perché la vecchina ormai era malata, influenzata, non poteva consegnare i regali anche ai bambini poveri. E insomma, poi dopo c'è una sorta di rivoluzione, la befana si riprende, in una notte rimette tutto a posto e riesce anche a fare i doni ai bambini poverelli. Quindi volevo innanzitutto salutarvi con questa mia voce un po' roca, che non è per l'età, ma è perché siamo vittime di bisbocce di tante feste. Quindi ho insomma assunto una voce un po' alla Mandalir, adesso ti cedo. È perfetta per stasera, io la voce ce l'ho così da quando sono piccola, quindi non c'è problema. E quindi non mi fanno nulla. Tra l'altro hai fatto delle feste di relax, che mi hai detto prima, tanto, che dovremmo anche riprendere in un prossimo weekend. Perché ti conto. Siamo state tramite, perché siamo un po' com'è che si chiama, noosfera. Siamo state tramite Natalia a Padova, dove abbiamo fatto servizio completo di gastronomie, cicchetti e terme, e alla fine siamo contente, anche perché poi Padova ritornerà anche nel corso della puntata, queste cose un po' rizomatiche. Fatemi dire rizoma per una prima volta dell'anno. Stamattina Willy, quando parlava della befana, parlava della veccia che porta l'ora. Quindi anche questa era molto interessante. Che cos'è che porta l'ora? L'ora è il cicchetto. Non lo sapevo. La veccia che porta. Però è molto affascinante questo doppio significato. Sempre in Veneto. No, questo doppio significato, l'ora, sì, sì. E l'ora. E l'ora. Che non so, insomma. E quindi a me la Freccia Azzurra mi ha fatto venire in mente questo libro molto carino per bimbi. Mi ha fatto venire in mente intanto la nostra fantastica Samantha, che negli anni precedenti ci ha fatto sognare tra le stelle. Ovviamente non era una befana, perché è giovane e anche abbastanza anomala per essere una vecchina col volto rugoso. Ma perché tu dici lei era l'astronauta. L'astronauta. E quindi quando ho pensato a Samantha, ho detto: allora la befana di cui si può parlare oggi può essere una befana cosmonauta, che è diverso dall'astronauta, che i cosmonauti erano gli astronauti russi, e gli astronauti invece erano quelli americani. E Bologna è stata una città ovviamente molto legata alla Russia. Nella storia di Bologna c'è anche la visita della prima cosmonauta russa, che venne a Bologna nel 67 con tutte le onorificenze, il saluto delle autorità, venne a visitare Palazzo d'Accursi. È stata una situazione molto molto carina, che magari col tempo vi racconterò durante la puntata. E vorrei cedere. No, aspetta che... Cioè, ci stava, no? Questo carico di doni che ci hai portato nella calza. Io poi ho anche il calzetto di lana bello grosso, e quindi c'è spazio. C'è spazio anche per Natalia Mazzer, che avremmo già un po' concordato. Non voglio lasciarti il peso di tutta di questo tema, però sì, in questo siparietto da introduzione, da vaga scaletta. Vaghissime, proprio vaghissime, però volevamo parlare di Swap Party, no? Sì. O volevi parlare delle mie vacanze a Padova? No, quello magari poi dopo. Lo Swap Party è una cosa che io conosco da pochissimi anni, ma è una cosa bellissima. Infatti credo che la prima persona che mi ha invitato a una festa di scambio, perché questo è il nome italiano, sei stata tu. Davvero? Io? Credo proprio di sì, in realtà con quel nome. Cambio armadio. Cioè, ci scambiamo le cose che non ci servono più. Questo è l'antitesi dello shopping, direi. Oppure quello che si fa dopo lo shopping, perché hai tutto l'armadietto pieno delle cose nuove. Io invece lo faccio invece dello shopping. Anch'io ho teso a farlo. È più bello. Fra l'altro, cioè, questa maglietta l'ha portata a uno swap la Sonia. Io questa l'ho presa da Alessandra, questa gonna bellissima. Nello swap ultimo che sono stata l'anno scorso. Che Alessandra è la grande assente di questa puntata. Però è in giro a far shopping. Cosa sarebbe? e dobbiamo comprenderla. Posso dargli della puzzona? Della coxona? Della coxona. Va bene, della coxona, okay. Perché non c'è. Va bene. E poi abbiamo un'altra grande assente, però sarebbe stata Silente, quindi... Va bene, insomma. E allora, a questo punto, vogliamo mettere un altro branino e poi partiamo con uno o l'altro degli argomenti? Tanto se giochiamo a marro cinese? Ok, allora, preferite qualcosa di più suadente erotico o qualcosa di più allegro però classico? Allegro. E classico? Oppure direi, oppure qualcosa di... Io ero per il suo dente erotico, perché avevo capito che lo swap era tutta un'altra roba. Si scambiava qualcos'altro, insomma. Magari. Però. Si può pensare anche uno swap. Allora, così. Allora facciamo così, facciamo lo suo dente erotico che è la colonna sonora dello swap alla Sabina, ok? Va bene, questo è un pezzone, ragazze, attenzione. Je suis prête. Vous êtes prêts aussi? Dopo questo brano dobbiamo parlare con la voce più morbida, che ne dite? Ripeto, a favore di Natalia, che si è appena messa le cuffie. Ma dopo questo brano dobbiamo mantenere un certo tono, che ne dite? Ci proviamo. Ci proviamo a essere suadenti come chi la canzone. Chi è che fa la... C'è una che fa la non dirò chi è. Ma lo fa benissimo. Sì. Chiederemo di farlo sempre. E prova ad esprimere il tema delle cosmonaute solo con la... Senti, la risatina proprio mi è venuta. No, ma questo qua era un pezzone, ragazze. Grazie, Fedra, di questo ricordo. Dell'altro millennio, come si diceva. Allora, quindi noi adesso con questo sottofondo parliamo di cosmonaute. Valentina Tereskova arriva a Bologna, è accolta come la più grande esponente del socialismo. donna nello spazio, meritevole di encomi da parte del mondo occidentale socialista, arriva a Bologna e, se non sbaglio, la leggenda narra, perché questi sono racconti che ogni tanto nei corridoi dei luoghi che frequento mi trasferisco, se non sbaglio, non diremo quali, l'hanno portata alla mensa a mangiare la mensa. Compagna. La compagna ha mangiato la mensa. Ma il racconto bello di Valentina Terescova è che io ho sognato più volte una Befana che dallo spazio potesse dalle profondità galattiche, perché in realtà la Befana è diretta a guardarci calzetti. La tradizione della Befana è più legata alla terra, perché è una tradizione pagana legata alla fertilità della terra, legata ai doni della terra. Ci ricordiamo la terra da che origine, da dove... L'epifania addirittura è una parola greca, poi dopo noi l'abbiamo un po'... Che vuol dire la scoperta. Sì, sì. Cioè una scoperta che ti sciocca, come... che poi è stata captata da quella che è l'apparizione del divino. Del divino legato però comunque a quelli che erano non solo le apparizioni divine che i pagani guardavano su questi campi che dovevano rifiorire essere rifertilizzati, era un divino comunque legato all'uomo, all'essere umano e alla terra, e quindi dalla fertilità terrestre. Io però l'immagine della Befana ce l'ho sempre celeste, non so perché, ma me l'immagino lassù nello spazio, e non so perché oggi la Befana che mi è venuta in mente è la Valentina Terescova. Senti, ma lì nello spazio te le immagini con la scopa di Saggina oppure su una stella cometa? Assolutamente no, ma le immagino con la cagnetta Laika. Ma secondo me dovremmo tornare un po' a immaginarci noi così nello spazio, a sognare, a pensare a quegli anni in cui si sognava davvero, perché adesso ci sembra tutto così vicino e scontato, è come se avessimo perso quel sogno. Invece io vorrei ricoltivare il sogno di vagare nello spazio come la Befana questa notte. Ma guarda che tu mi vieni un sacco pertinente, perché proprio in questo, a cavallo di questo Capodanno, io mi sto un pochino facendo tutti dei rimestolamenti e cose così, e mi sono trovata spesso a pensare al mio indicibile. Oh. Era una indicibile. No, la questione è, ad esempio, guardo spessissimo il cielo e mi vengono in mente le profondità marine, che sono forse l'ultima cosa che sono rimaste da esplorare a noi su questo pianeta. Ah, sì. Che è proprio un simmetrico, no? E chissà, perché la Befana che viene dalle profondità marine. Siamo esseri piccolissimi, noi ci immaginiamo grandi e grossi, in realtà gli esseri piccolissimi sono quelli che abitano le profondità marine, questi batteri che resistono a delle temperature pazzesche che noi non riusciremo neanche a immaginarci, invece noi siamo convinti di poter esplorare profondità e cosmo, ma in realtà siamo ancora qui legati a questa terra. Sì, anche prima con Natalia abbiamo fatto questo, parlato un pochino delle montagne alte del Sud America, dell'Argentina. E anche della Svizzera, e a me è venuto in mente questa cosa, che la montagna ci restituisce della nostra piccolezza umana. Nelle città dominiamo tutto perché tutto è costruito a nostra misura, ma in realtà gratta dopo, prima della sovrastruttura, c'era quella roba là che c'è ancora, porca vacca. E secondo me, anche se pensiamo tanto di lasciamo pur perdere, no. C'è questo bel momento di vuoto coxico che ci sta sempre. Perché siamo nella montagna e ci sentiamo piccoli. E quindi parliamo così. Ciao! Però anche nella montagna, se tu parli forte, è come se comunicassi con Dio, chiamalo come vuoi, ma comunichi con l'universo in un modo concreto, diciamo. Almeno a me mi sembra così. Sì. Cioè, la montagna, tutta questa massicciosità, questa cosa enorme, c'ha dell'incontenibile. Però dà anche un senso di protezione, cioè a me dà l'idea non solo di essere talmente enorme che ti fa sentire piccolo e indifeso, ma al tempo stesso a volte la montagna ti dà quel senso di protezione, ti abbraccia come ti può abbracciare in generale la natura. Avevo fatto questo, ero stata a lavorare un paio d'anni fa in Trentino, e si faceva un sacco di lavoro sulla montagna, e avevo pensato, ma guarda, queste cioè perché poi c'erano state anche delle cose tecniche che in Trentino, con statuto autonomo, regione statuto, avevano risolto che fossero successe a Roma, a Bologna ci sarebbero voluti dei giorni d'amministrazione burocratica, e poi capitava che buttassero giù due alberi e tutta la popolazione, no, questi alberi non li tocchi, cioè, e loro che vivono a contatto con questa cosa, secondo me hanno una dimensione diversa, hanno una sensazione, una... si medesimano diversamente nello stare sociale, cioè sono più misurati, e questo li rende più efficienti, produttivi e rispettosi. Chi è? Chi è? Bene, io adesso lascio la palla e insomma, andiamoci sui ritmi sfadenti delle montagne del Sud America e questi swap party, raccontatemi per favore, perché io sono rimasta ancora lì in mezzo alle stelle, ma vorrei tra un po' raccontare quello tra un perché pochino. C'è il tempo tecnico adesso. Perché le pubblicità ai noi non ci sono più, perché mi davano quel senso proprio che alla mezza rigore, c'era qualcosa, però una cosa è rimasta, vediamo se i nostri coxonauti se la ricordano, è questa qui, l'angolo della menzione. Che non è vero, però, perché dimensioni non ne abbiamo. Però abbiamo un'altra cosa che è una pseudomenzione, ovvero abbiamo un'intervista esclusivissima, wow, che Stefano Pasquini, sempre W. Pasquini, coxo conduttore assente, ha fatto al talentuosissimo Farnedi, Enrico Farnedi. Sentiamo cosa ci dice e poi basta. Quale sarà? Sarà questo? Perché sì, speriamo. Sarà questo, sì, vado. Che poi mi sgrida Pasquini se sbaglio l'ordine. Ci credo. Però, perché? Bellissimo come si sente questo audio. Mi è proprio piaciuto. Allora, qui è tutto al massimo. Vediamo se andando più avanti cambia qualcosa. Non sembra cambiare. Faremo le canzoni. Ah sì, cambia qualcosa. Era solo questa coda iniziale, adesso lo rimetto indietro. Vediamo. È un locale, un bel localino di moda qualche anno fa. Ok. Sì, ciao Pasquini, ciao. Vabbè, adesso. Farnedi, come stai? Ho sentito che oggi fai un concerto. Sì, ciao Pasquini, ciao. Oggi suono a Rimini al Lord Nelson Pub. Wow, suona bene. Che cos'è? È un pub, i classici pub che andavano più di moda qualche anno fa, anche in Riviera ce n'erano un sacco di pub con proprio questa accoglienza un po' all'inglese. Ottimo. È un locale, un bel localino con il palco, l'impianto, che non succede spesso invece di suonare fra i tavoli della gente. Che bello, per cui ci si aspetta che si spacchino bottiglie e ci si azzanni come nei migliori pub inglesi, oppure tutto normale? Ma a me piacerebbe, ma penso che sarà tutto normale. Mi sa che la gente si rimetterà a bere, mangiare, ascoltare. È vero, perché adesso nei pub si mangia anche, cosa che in Inghilterra non fanno tanto spesso, cioè lo fanno a pranzo, ma non molto spesso. E cosa sì, suoni? E cosa suoni? Si mangia roba scongelata. Sì, infatti, esatto. E cos'è che suoni al Lord Nelson stasera? È una cosa abbastanza eccezionale, per questo periodo farò le mie canzoni. Ah, fantastico. Il trio originale di Farnedi con Bovi, Marco Bovi al basso e Mauro Gazzoni alla batteria, faremo le canzoni di Farnedi. Poi però, essendo che abbiamo anche un lavoro nuovo uscito in uscita a cavallo fra questi due anni, cioè è marchiato 2018 ma in realtà è stato stampato nel 2017. Esatto. Faremo anche delle canzoni di quel disco lì, che è il famoso disco con le canzoni di Lucio Dalla. Ecco, il famoso disco è famoso per me, che ce l'ho in saccoccia da un mese e comunque, esatto, fino a che non ho avuto il benestare non ho potuto mettere su nessun pezzo. Esatto. E adesso ho il benestare, possiamo sentire un pezzo. Sì, certo che il benestare. E che cosa, ma innanzitutto come mai ti è venuto in mente di fare un disco di canzoni di Dalla? Ma un disco su Lucio Dalla, perché a me Dalla è sempre piaciuto, e all'inizio dell'anno scorso, un anno fa, Francesco Giampaoli, che è il produttore dei miei dischi precedenti, mi ha chiesto di mettere insieme un piccolo repertorio su Lucio Dalla per suonare io da solo con il mio ukulele durante una serata in un locale di Ravenna, al Cisim. Lo nomino perché fa sempre cose belle e interessanti, a te piacerebbe. Ha una matrice hip hop ma aperto all'arte, a un sacco di l'arte performativa. Suona bene. Sì. E comunque dopo quella cosa lì altri organizzatori di concerti locali o del genere mi hanno contattato perché erano incuriositi, e allora ho cominciato a farlo un po' più spesso e ho allargato la cosa, l'ho fatta diventare un trio coinvolgendo Lorenzo Gasperoni, che suona con me spesso già da tempo, e il solito Mauro Gazzoni. E inizialmente avevo pensato, faccio Dalla fino a maggio, poi ho detto ma no dai, arriviamo alla fine dell'estate. Poi alla fine dell'estate le cose continuavano ad andare bene, i concerti si facevano, abbiamo fatto un concerto meraviglioso all'Alba a Riccione con centinaia di persone, e allora lì abbiamo detto dai, mettiamo, fissiamo questa cosa su disco perché se la merita, è una cosa comunque che ci ha coinvolto molto. Non è mai stato il classico tributo che magari si fa anche per lavorare, che non c'è niente di male, nel senso che adesso è un periodo che i tributi funzionano e proporli ai locali è più facile che proporre cose proprie, tributi, omaggi, cose del genere. Noi l'abbiamo vissuto in un modo un po' diverso, per me Dalla è sempre stato una presenza fissa fin da quando ero un bambino, con la faccenda che piaceva tantissimo a mia madre, i dischi c'erano. E allora alla fine dell'estate abbiamo deciso mettiamolo su disco, perché almeno rimane qualcosa di questa esperienza che, ripeto, non sarà eterna, non andrà avanti a oltranza. A un certo punto la chiuderemo, ma a sto punto non mi do più scadenze, perché ho visto che non sono capace di mantenerle. E dunque Dalla tira, insomma. Ma il disco è molto fresco, effettivamente, devo dire che funziona bene, a me è piaciuto molto. Che cosa ci fai sentire dunque? Cosa mi permetti di mettere su in questo? Ma ti permetto, io sto proprio questi giorni propongo Tutta la vita, perché è un po' anche la canzone simbolo di Dalla, che parla dei musicisti e di musica, e c'è il verso di quella canzone lì che ha dato il titolo al disco, che è al centro della confusione. Però sei libero di scegliere quello che vuoi, se ce n'è un altro che ti piace di più. Ho capito, perché devo dire che quel Dalla lì, francamente, era già il periodo che mi piaceva molto meno rispetto al Dalla di prima. A me piace moltissimo il primo pezzo, per esempio. Però adesso li metto su tutti e due. Adesso mettiamo su Tutta la vita, così ti facciamo contento. E poi più tardi, fra una scoreggia e l'altra di Coxo Spaziale, metto su anche credo che si chiami il Corso Buenos Aires, se non sbaglio. Corso Buenos Aires, sì. Che effettivamente è un pezzo abbastanza, come si dice, è un pezzo un po' svantaggiato, no? È un pezzo che non conoscono in tanti, ma è fantastico. Sì, infatti non è di quelli che è rimasto più celebre, perché magari è meno sentimentale, è meno il Dalla classico, però comunque sì, è un pezzo clamoroso. Cioè tutti quelli, dal vivo mi accorgo che tutti quelli che lo sentono rimangono molto, molto colpiti. Fantastico. E dunque buon concerto stasera al Love Nelson di Rimini. Se qualcuno di voi che ci sta ascoltando vuole partire, fare 200 in autostrada e arrivare a Rimini per sentire Farnedi, ha ancora un po' di tempo per farlo, che ora comincia, hai detto, alle 9:30? No, verso 10? Le 10:30, 10:15, diciamo, non si capisce mai. Ok. Dicono, si inizia alle 10, poi ti fanno iniziare alle 10:15. Per cui a mezzanotte, insomma, ho capito. Poi aspetto con quelli che arrivano ai 200, tergiverserò. Molto bene. Beh sì, effettivamente un due o tre autovelox da qua a Rimini ci sono. Direi che spendere quei 700 euro per vederti in tempo mi sembra che ne valga la pena. Io ti ringrazio, e poi naturalmente ti aspetto qui in studio per suonare Dalla dal vivo, o anche Farnedi dal vivo, quello che vuoi tu. Insomma. Verrò prossimamente e potrei fare anche entrambe le cose. Potrebbe essere simpatico, allora. Grazie e a presto. Ok, ciao. Ciao. Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel buio delle scale, le spalle contro quella porta, tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita, su e giù nel mezzo alla tastiera. Siamo sicuri che era musica, tutta la vita, provare a dirti che partivo, oh che partivo, che morivo, oh, oh. Domani compro un bel violino e una camicia di velluto e ti saluto e ti saluto. Non doveva farlo con la vocina. Che si è perduto. Ce l'ha la voce allora. Al limite fisico del racconto. Na, na, na. O dentro un cielo tropicale. Na, na, na. Come ciao Stefano, che non vuoi che si canti sopra le canzoni. Per le scale contro una porta tutta la vita. Senza mai chiudere una porta, na, na, na. Salutando gli ultimi capelli e con un ghigno criminale. Come sarebbe fammi un esempio, esempio, un esempio, tutta la vita, ah, ah, ah. Senza nemmeno un paracone, ah, ah, ah. Fin dalla prima discoteca, ah, ah, ah. Lasciando casa un cuore sulle scale, ah, ah, ah. Siamo sicuri che la musica, ma la musica, sì la musica, bellissimo omaggio. Sta facendo l'assolo di chitarra, attenzione. A Stefano non piace che cantiamo sopra le canzoni, però del resto Lolli dice: tutta la vita. Se ci canto sopra non la registrano. Telefonista e moribondo. Piacevolmente addormentato. Su e giù nel buio di un divano. Tutta la vita. Vai che ritorna. Al centro della confusione. È bravo Farnelli. O dentro al palmo di una mano. Anche la Sabi. Ma senza niente di meccanico. Come un pallone che si è perduto. Duetto Sabi e Enrico. Io ti saluto. Sabi fa il visual. Saluta. E adesso attenzione, perché dopo la cover c'è un altro Farnedi che però è originale, un original Farnedi. Ah. Tan. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Ovo. Oh, no. Io non ho visto niente, non ho visto la sua faccia. Passavo di là, con mia moglie andavo a caccia. Io l'ho visto da vicino, gli occhi erano due sputi. La faccia era gialla, una faccia d'assassino. L'ho visto accarezzare un cane, avevano lo stesso sguardo. Cane e uomo morivano di fame. E adesso dov'è? Adesso dov'è? Scendeva di corsa le scale della metropolitana. In mano aveva del tonno, un salame e una banana. E poi sul più bello è spuntato anche un coltello. E un colpo di qua, e un colpo di là. Il cane gli stava sempre dietro, gli occhi, lo stesso sguardo. Sembravano Cristo con San Pietro, quando erano in ritardo. Allora chi è? Allora chi è? Deve essere uno slavo, e dorme, ruba la stazione con quegli occhi senza luce e senz'altro un mascalzone. Chiamiamo un pulismano, ho appena visto l'assassino, dava fastidio a un bambino, lo teneva per la mano. Il cane, l'uomo e il bambino, appena mangiato un po' di tonno, si sono stretti vicino, vicino, vicino, e forse morivano di sonno. Ma allora chi è? E allora chi è? Oh, ragioniere, diamo la borsa e vada via di corsa in fondo a quella via a chiamare la polizia. Non dobbiamo perdere tempo, c'è un bar qui vicino e si può telefonare, ci facciamo anche un grappino. Arriva volando la volante con un furore sacro, confusa da tutta quella gente, non frena e fa un massacro. Alla fine della corsa il primo a cadere, il ragioniere che rivoleva indietro la sua borsa. Poi fu la volta di un bagnino che ancora in mutande aveva sospeso i lavori in una piscina lì vicino. Balciati mentre guardavano il lavoro in corso, due gemelli in pensione furono scaricati in un pronto soccorso. Un salumiere e un tabaccaio che da anni non si rivolgevano la parola approfittarono della confusione per spararsi alcuni colpi di pistola. Il padre vide la scena, si prese paura, dimenticò il sonno e la fame, prese per mano il bambino che disperato piangeva e non voleva lasciare lì il cane. Decisero in fretta di tornare a Barletta e corsero alla stazione, perché a Milano in agosto, oltre al gran caldo, c'è davvero tanta confusione. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Allora chi è? E allora chi è? Oh oh, oh oh, oh. E allora? Per lasciare in sospeso e così far sì che si scarichino questo corso Buenos Aires, per rimanere in tema, sfumiamo la canzone, ci parliamo sopra e riprendiamo il nostro super mega galattico 202esimo coxo. Ok? Ok. Fra l'altro abbiamo anche una persona che ogni Befana, noi del coxo la chiamiamo, un collegamento da Padova, la nostra Laura V. Ciao Laura V. Ciao! Ciao, senti che bella voce! Ciao! Ti salutano Natalia, Sabina e anche la Sabrina che è ospite silente. E, ciao! E con Laura noi andremo a sviluppare il secondo tema di questa puntata, perché dopo le cosmonaute lo swap party. Che tu sai, hai trovato su Wikipedia che su cos'è? Su Wikipedia, sì. Ciao Laura, buon anno! Buon anno! Adesso sono preparata abbastanza. Ma come? Già lo sai? Ho studiato. Ma cioè, no, te lo doveva dire la Natalia. E adesso la Natalia cosa ti dice? Ma Natalia, no, Natalia, spiegamelo tu, perché Wikipedia non è mica tanto preciso. Scusa, eh, cosa dice ci Wikipedia? Ma no, adesso lo devo riaprire, ma insomma comunque diceva per organizzare uno swap party, punto, cioè c'era un decalogo di cose che andavano fatte. Tipo? Ma tipo uno fissa la data, cioè intanto intelligentissimo, geniale. Magari due verifica che tutti possano venire, una cosa così, trova il locale adatto, invita le tue amiche, cioè vabbè, Natalia aiuto, locale adatto, casa di Fedra per esempio, che non ho non adesso, quando ce l'avrai, ecco, non, esatto, perennemente, sì, trasloco. Lei avrà una casa, lei avrà una casa adatta per fare lo swap party, assolutamente, partecipanti. Beh, anche meno, però va bene, grazie per l'augurio, me lo segno, lo porto in saccoccina, che la Befana la Befana porta i regali e questo sarà il mio. Una a proposito, stiamo cercando una casa, chi ci ascolta, stiamo cercando una casa, io per fare lo swap in Bologna e non in Padova, per viverci, però... non in Padova, perché a Padova ce l'ho già una casa. Anch'io. Ma anch'io, però. La mia casa è da Laura. Anche la mia casa è da Laura. Però... Ma Laura non c'è. No, no, quando no, va via però mi lascia la casa. No, ma guarda Natalia, se c'hai bisogno anche. No, ma non ero riferito, cioè, non era riferito a te, però lo stesso ho una casa da Laura a Padova. Tra omonime Ma fra omonime, sai, Laura di Padova, tu sa che insomma ci si scambia le case. Siamo tranquille. E infatti preparati per una doppietta da Bologna, cara Laura. Arriveremo. Spazio per tutti serene. Bene, bene, bene. Ma ritornando a noi, allora, in questo proprio oggi, sì, che è il giorno in cui comincia ufficialmente lo shopping nei negozi, noi rispondiamo con Swap Party, che, sì, che è molto meglio. Vogliamo, direi. Nel decalogo di Wikipedia c'erano i pregi? Che, no, non credo, non sono, cioè, quando sentite del decalogo che diceva invita le amiche, ho lasciato stare, cioè, sentite il peso della domanda di... i pregi dello swap party. Allora, io mi ricordo lo swap party, il mio primo, a casa di Fedra. No, era a casa di era a casa mia, a casa di Fedra, in cartoleria. Sì, in cartoleria. Ah, sì. E tipo arrivavamo con ognuno il suo carico di beni. E che carichi? E che carichi? Qualcuno ha portato anche la salama. Non me la ricordo la salama, però mi ricordo delle birre, una macchina che faceva i popcorn. Quella ce l'hai, è mia, mia competenza. E tante belle cose da scambiare. Beh, visto che siamo in tema ancora festivo, volevo dire ti saluto Stefano. Stefano Bernardini di Padova, che mi hai regalato la macchina per fare il popcorn vintage, perché quella viene dagli anni 90, cioè era fatta per il novantesimo, che era una roba era del il pinguino, mi ricordo bene. Sembrava un pinguino, sì. Stupenda. Sì, infatti quando vado, cioè, te la porto quando veniamo, Laura. Sì, io procuro il Campari, tanto detto, buona idea. Anche il Cinar, per favore, che sai, misto col correzione, sì, no, di Pompelmo. Ma il fai tu, io ti procuro tutto. Cinar e succo d'arancia. Io mi aspetto il tuo Pompelmo giallo. Ancora meglio. Ritornando a noi, quindi ciascuna arriva con il proprio carico di doni, di tutto quello che non ti serve più. Di vestiti e non solo, c'erano anche scarpe, trucchi. Io mi ricordo di aver preso una volta uno zaino bellissimo che ancora ho e uso da montagna, e anche una vaporiera per mettere nel forno, che fatta figata, di silicone, non ho mai usato, l'ho regalata anche a qualcuno. E delle alghe, che erano vecchie, ma le ho usate lo stesso. Alga vecchia fa buon brodo. Tu, Laura, ne hai mai fatti di swap? Adesso che sai che cos'è? No, io adesso ne voglio fare uno. Quando venite? Quando tu lo organizzi, chiamo i miei amici di Padova anche. No, ma guarda, scusami, facciamola venire a Bologna, che tanto a breve ne organizzeremo una, probabilmente dall'Alessandra. Ci sta. Perché alla fine ce n'abbiamo di roba ormai, ce n'abbiamo. Poi con tutti questi traslochi che io ho. Quando farò un trasloco, allora sì. Anche tu. Tutti a traslocare. Te, no, Laura, stai traslocando. Ma aspettare un trasloco. Però se me la tirate, forse. No, è che ho ancora le cose in cantina, per cui non saprei cosa regalarvi. No, vabbè, comunque al massimo. Una scatola a caso, poi. Sì, effettivamente. Tipo quella con le tazzine, sai. La scatola dei bottoni vintage. Qualcosa così, esatto, belli bottoni vintage. E ci facciamo dare un hint da Sabrina, ospite silente? Cioè, non che lo dici a voce, ma facci capire in cosa potremmo approfondire questo tema. Hai una domanda che vorresti fare ma non puoi perché non hai... No, sei soddisfatta? Sta venendo bene? Cosa vorresti... Ci manca qualcosa. Cosa ci vorresti manca qualcosa, svuopare? Perché svuopare. Abbiamo un ospite silente che si chiama Sabrina, che tu hai conosciuto. Io ho conosciuto? Sì. È quello Sabrina. Ciao Sabrina. Ciao. Saluta, ciao. Però senza voce perché faccio io Sabina parla per Sabrina. Vai. Ciao. Ecco. Forse arriva al microfono. Silenzio. Si sta avvicinando. Momento di... È anche un modo per mangiare insieme. Soprattutto. Mi è piaciuta questo intervento muto. Ok. E chi l'ha detto? No, non l'ha detto. L'ospite muto. Beh, ragazze, sono le 20:54. Si sta per concludere la 202esima puntata del Cox. E non abbiamo una data per il nostro swap party? Sì, ma questa è una cosa che dobbiamo poi fare in privato. Che qui, cioè, insomma. Di solito questo caratterizza lo swap party. che sia in privato. Anche perché poi la cosa più carina è la mutanda libera, cioè che ti trovi in un certo casino di cose da provare, che alla fine sei sempre mutande e calzetti d'inverno. Quindi potrebbe essere quello che avevo pensato io all'inizio della trasmissione, cioè che si potrebbe scambiare qualcos'altro anche. Se vuoi, no, se trovi il pubblico adatto, sì. Dobbiamo aggiornare Laura, perché Sabina è rimasta un po', diciamo, sconcertata dal conoscere il significato dello swap party. Immaginava il cambio, fosse, immaginavo cose meravigliose, non ecco. Vestiti. Ma, sì, i vestiti delle illusioni. No, ma i vestiti delle amiche sono cose meravigliose. Anche le alghe vecchie. Poi dopo te li metti e pensi agli amici, cioè non è poco. Sì. Poi devo dire che forse salendo il livello alcolico lo scambio diventa anche, cioè, si allarga, no? Esatto. Vabbè, non lo so, in realtà non mi è mai capitato. Quello che mi è capitato è di prendermi tutti i vestiti che nessuno voleva e dopo dover regalarli, perché non avevo bisogno. Perché anche tu eri nessuno che li voleva, nemmeno. Esatto. Hai avuto pietà di questi poveri vestiti abbandonati. Esatto. Che ti guardavano. No. Sono tornata a casa infatti con tutte le cose addosso e un po' in una borsa. Come quando viaggi con Ryanair, che ti metti tutto addosso. Ryanair, quanto tempo che non viaggio io? Avrei dovuto a fine novembre, ma poi per lavoro ho dovuto rinunciare. Va bene. E con questa nota... Sabrina mi ha guardato. Tornerà il tempo del viaggio, visto che siamo befane, e torneremo a viaggiare nei cieli. Sì, nei cieli cosmici. Nei cieli, wow. Sì, la prima parte della puntata. No, io in realtà vengo dal sud, da noi non si chiamava swap party, da noi ci si trovava in casa quando c'era da andare a un matrimonio, a una festa di 18 anni, ci si trovava tra amiche e ci si scambiava i vestiti, perché non si poteva andare alle feste tutte con lo stesso vestito, quindi alla fine ci si scambiava i vestiti tra amiche, perché in quella maniera non ci si presentava. Cioè, il vestito cambiava. No, ma scusami, però quello lì è uno scambio, non è che poi ti rimane a te il vestito. Ma c'era un giro, guarda, il possesso dell'abito non passava. Che mi ricordava un po', io poi sono un amante della letteratura, dei racconti di infanzia, le piccole donne, no? Non so se vi ricordate i racconti di piccole donne, quando loro si preparavano per andare alle feste, che non avevano mai vestiti perché erano poco, il nastro, questo guanto che se lo passavano di mano in mano, uno ne portava uno, uno ne portava un altro. E mi ricordo questi racconti che ci hanno messo su. I guanti sono come i calzini, non ce ne sono mai due. Allora c'era Meg che ne portava uno, era Joe che ne portava un altro. Era meravigliosa questa idea di non consumare, ma di utilizzare quello che si aveva. Natalia, questa è una cosa che io mi ricordo sempre da piccola, nel sud del sud, più sud di tutti i sud che conoscete, e sempre ci siamo sempre scambiati i vestiti, sia quando c'era il matrimonio di mio cugino che ho dovuto chiedere in prestito non solo il vestito ma anche le scarpe, ma anche in generale mia sorella che prendeva le mie cose, io che prendevo le cose di un'amica, e così ci si scambiava sempre i vestiti. Anche a nord-est io mi ricordo sti sacchi delle amiche, sì, della infatti. Mamma che dismettevano i vestiti dei figli e io che sceglievo e via dicendo. Mi piaceva un sacco quel momento, anche perché bello. Rispetto al negozio, lo stress, la gente in fila, la cabina di posa, cioè tu lì, a parte che c'hai i tuoi specchi che sai come ti deformano e non come gli altri, poi non hai fretta. Esatto, e puoi stare lì in mutanda a farti tutte le prove che vuoi. Vabbè ragazze, comunque dobbiamo salutarci. 2018. Dobbiamo salutarci perché ormai è andata. Laura, sono contentissima di averti avuto con noi per la Befana. Ci rivediamo, ci risentiamo la Befana prossima, sempre però, su questa rete. Ma ci rivediamo prima. Prima sì, ma questo. Beh, io secondo di sì, di solito sì, poi. E magari una volta vieni anche in diretta qua in radio, quando ti sradichiamo e ti portiamo. Sì, dai. Ma io. Tu trova a casa, che poi piano piano. E allora Laura l'abbiamo salutata, salutiamoci tutti. Ciao Laura. Ciao Laura. Ciao, grazie ancora. E adesso salutiamo la nostra ospite silente Sabrina. Ciao Sabrina. Ciao Sabrina. E tra voi due chi... ecco, il labiale. E tra voi due chi salutiamo prima? Ciao. Non sé. Hasta presto. Ciao Sabina. Hasta pronto. Ciao pronto. Sabina, ciao Natalia. Salutaci tu con la lingua. È un po' sudente come. Hasta siempre. Nos vemos la prossima. Va bene. Sarà fatto. Ciao. Ciao. Ciao. the fuck.